il riso che ti è durato la mia vita, ma che ci sono, io bambini, perché non mi piaceva mangiare il riso, lui si dava la tema di riso, la stessa cosa, però io sono stato proprio di sempre il riso bianco, se ma il riso non mi piace. Fai il riso che ti passa, dai, non è niente preoccupato, se tu ti provi, fatti vedere a qualcuno. Sì, adesso forse un po' più bassa. Tappa, tappa, appena più bassa. così dovrebbe essere più che sufficiente per ascoltarci umanamente. Confermi, Giulia? Confermo, ministro, va benissimo. Non c'è nessuna superformulazione, va benissimo così, ma è anche forte, dai, va bene, grazie, anche così si fa la prossima volta. Ultimamente. Gabriele, dai compatti con me i segnali lì, invece. Ognuno dava il suo controllo, così sono i riferimenti. Purtroppo quello lì ha fatto una brutta fine, Niente, adesso dobbiamo anche me lo rimetto. Ehi, vabbè, ma già se ne trova nessuno, quindi fatta l'ultimato, lui già lo sa, cosa può farli, come, quanto costa, non è che io non lo sappia, ma se lo sa anche tu. Thank you. sulla sanità, c'è un microfono. Questo può rispondere, non mi sento bene. Questo non può essere di senso, come è di senso? Ti interessa tutti? Sì, Mario, sta... sì, stamattina a Roma. che mi rimango un po' in curvizio, che non mi sento bene, no? E al limite ci sentiamo domani. Ciao Giulio, ben sentito, alle prossime, buon tutto, anche se Natalino avete l'ascolto, ciao, alle prossime, tanti auguri per la salute. Sì, no, poi non le prendo più, non ho tanto da fare, no, no, no. Cavolo, ormai mi devo attaccare. apprezzare, ah. Sì. Perché vuoi entrare? avanti. Ah, sono io Luca, sono entrato. Che vuoi mandare a fare, tu? Sì, non l'avevo comunicato, giù da adesso. No, ma prima che avevo già ascoltato lo stesso, anche se non mandava a terare, sì, no, in San Maruta, che quindi abbia stesso. Chino e Chino, vicino ce n'è solo uno, come lui non c'è nessuno, dico Giustino. E allora... Ma tu mi senti di Luca o quando non mandava a terare? No, ti capisco lui, no. Tu no? Io ho sentito, però non so dove tu. Provo a mettere in mano, metti in l'estensiva fine, vabbè, faccio un passaggio, voglio vedere non ti ascolto. La passare per quanto sta in questo studio. Figlio, no? E c'ha poi se la fate tutto il figlio, c'è il gusto delle cose forti, cos'è? Ma la facciamo Mario allora. No, mi ha fatto il prestato, se lo faccio con la camicia, se lo faccio. È tratto di forchetto, non lo vado, non lo vado. Una paglia che ho visto su quelli frutti mi darò grano. Aspetto il pollo. Siccome appena accosto, sì, lo mangio, però non mi piace. Poi quando è riposato, lo riscaldo, è più buono. E non lo posso mangiare, mamma mia, ragazzi. Ma io invece oggi, mi si è cucinato che c'era anche mia madre, lui. Ma poco la pizza, ieri sera, ma poco la pizza, gli si tiene di pecora. Abbiamo fatto arrosto, ma guarda, mi sono fatto a ti piace? Io sì, è la verità, non ne ho mai mangiato, no, poi ho la pecora, la bollita, mamma mia. No, non bollita, no. Gli intestini di pecora, cioè le costoline, quella roba lì, fatta arrosto, prendiamo le veloce e sale, con il veloce di arrosto. Ah, grappa, no, vabbè, se ti volevo dire, tipo però poi la pecora bollita, va a carezzare. Ah, ma le qui sono buone, la verità non le ho mai mangiato, mai. Soltanto l'hanno rimessa in commercio e basta. ufficialmente io so che non si può prendere. Yeah. carnivora, non è che sono carnivoro, non mangio poco e niente di carne, non so mangiare le salsiccione e basta, non farmi mai il maiale, cose del genere, almeno non ne mangio, mangio più tanto il tonno, carne bianche, pesce, la mollata, sì, però carne e poco e niente, tutti, non si problemi, non ne ho io, però quando sento una persona, sai che non se la mangiano, e l'hanno sempre mangiata, che sono così di vista, sai che si mangiano tutti i dubbi, quindi dice, allora la tua è il problema che mi ho preso con l'affare con il mal di stomaco, con la... Anche lui è qui, se esce, non è la vita da farsi. No, per quello no, vabbè, perché io ho fatto una pellicella di due orette, l'ho mangiato, guarda, l'ho mangiato, insomma mi sono coricato verso le 3:30, poi mi stavo guardando la televisione, tra l'altro per l'altro ho preso solo le 4, mi sono andato a sì, quindi mi ero riposato, no, per quello non mi crea problemi il cambiamento dell'orario, non mi ha mai creato problemi come ho sentito tanto. Ma non c'era la Maria Antonietta, ma finalmente ci sarebbe il primo. è la gente su montagna, adesso tutti gli altri, è gente che va, io per me sono morto, così mi faccio conoscere, mi invito al programma e mi voglio dire no. Ecco, sì, ho anche mia tavola di Chirocca, vorrei portare di Alghero, sì, sì. Sì, prima, il primo l'ho visto, secondo, ma poi non ho cambiato tutto, non è che sia per carità, ma sì, non lo fanno. Poi, per esempio, non la fanno la sorpresa, si punta quel pianto da bambini, neanche un bambino di un anno. Quella grande giovedì, quella tipa che si mette a piangere, ma sai, quella mia è molta. Però nel collo la camera no, con le braccia, con le braccia no. Ma che coniglio nulla? Nulla, nulla, no, non ho mai avuto cane. Ma è mangiato, ne ha me, forse la piccolina, ma anche me lo dava la frutta, ma non ho niente, le frutine è tagliate tutti i sottili, però dovranno essere cotte bene, a me la mangiava la carne a sangue, manca di legge. Non c'è carnivoro, ora? No, no, no, assolutamente. Sì, le bambine le abbiamo così, ogni tanto si prende perché la devono mangiare, però io assolutamente no, mi sono messi un po' di eliminata, la che cosa, ma la devo scegliere bene la roba. Perché io faccio molte volte faccio tutte e due, mi dicono, ti dico cosa mangio, cane non mangio, allora non posso comprare se ci sono la porta per me, oppure qualcosa su quello che tiene il cavallo su tutti i sottili, non lo posso fare come lo voglio io, se no non ne mangio. Poi quando sarà l'anno scorso mi sembra, ho buttato una fettina un bel grande, ma grande, e poi c'è un gabbiano in giro. Si è calato questo gabbiano, ha una zappa solo. No, roba, mi sono fatto un tatto. Sarà mangiata in due secondi. Tutto in questo l'ha mangiata. Ah, un tatto l'ha mangiata. Ma che si l'ha mangiata? Tutto la rete. Oh, ma non ha fatto come se... Due secondi c'era qui. Come non... Mi sento di prima mia madre, non sempre. Il pollo, noi tagliamo il pezzo dell'osso, no? E lo butto nel campetto. Ho fatto le regalino le cornacchie che fanno raus. Ma se la lui la mangiato, a casa, in città, il gabbiano. Sì, a qua al campetto, dentro, dove i capetti che hai visto tu. Ma questa manuale, a questo modo, la cosa che non ha. No, no, no, no, qua già mi girano la sorte, un girano. Cornacchie, va bene, sai che fa anche l'antenna, lui, ammazzo. Oh, se la dite qua, una cornacchia c'è di fronte a me, c'è un'antenna che ho fatto vedere, gli devo guardare la mattone, c'è una manco qua, c'è sempre una cornacchia tutti i giorni, non c'è l'antenna, non c'è il viaggio, grazie a Dio, la mia ancora non si va più il viaggio. E guarda, è che da Franco ne ho visto due, uno l'ha fatto una all'altra, indovandosi. La parabola mi è capitata, ma già sentito la lastica, ho schiaffato la mela alla mesa, su giù, la nella lampo. Scappare da fa, ma... Senti la lastica come devo rifare, non si sa mai, non si sa mai. No, vabbè, si sa che io mai, la verità, non ne ho mai visto una. Qua non mi si, però non occupa l'antenna. Si sa che si. Però gabbiani no, cornacchi, vabbè, gabbiani no, ma che cornacchi mai, mai, mai, mai. Andiamo bene, che hai detto, sta avanti. Come la Luisa. Ecco. Ah, così è. Affogato. No, vabbè. Interessante che non si possa fare la mia antenna. Schiaccia. È bella. Anche come la Luisa, roba. Sì, ma si dica, però sono durato un bel tutti. No, un bel mi si fanno tanti scendi. Lo squarci, roba. Io un po', non è che non lo senti più. Sì, il problema è che se la tengo troppo poi non la senti, a te ti sento benissimo anche se ti appena, ma lì non è forte, qua arriva senza l'uscita, uscite qui, poi basta il radio. Sei più forte del radio. Come lui? La mia Luca sto dicendo, sei più forte del radio. Ma lui c'è Franco, mi sbatta anche questo qua, ma è su 40 ma la laterale, sempre comprendi. Un po' chiuso le felici, no? Un garzino con la porta per dietro. Ma tu mi ascolti con tutto le referie in chiuso, Luca? Oh, vai. Uno di questi trova 30, 40, 50. Capo che ascolti. Ma che ascolta? Ma la Luisa sono chiuso tutto, non lo sento. Cavalava. Mi andava. Mario! Ehi, vai, io sono qua io. Papa che ti ho scelto per tutto. No, sei chiara! A fare un visivo, io ti ascolto, forza chiara! Ma un problema da queste coordinate! E poi lui è in zona alta! Gaffa gaffa! Capo di rosmetro! Guarda! E risolviate voi! Ma se lo vuoi ma condimento vero? Ma io lo metto, non mettere niente. Mamma mia, è una magia fatta uguale. Va bene. Va bene, comunque è un vino, un succhio. Un mattalino era... di Modio. Scusa, mi ha fatto conferma. Scusa, ma che tanto che sono su 40? Perché? Lo credo, almeno qua non sono su 40, devono essere, sono molto più scuro su altre bande, non lo so. Perché qua ho fatto una notte su 40, mi sento ma sono bassi, non sono su altri canali. Sono una frequenza, ma non lo sento più. Ciao, partito, perché stava lottando troppo forte. Comunque ho avuto appoggiato 5 palle, ossia con loro ci siamo benissimo. Adesso sono un'altra banda. Eravate due che parlavate? No, era un'altra banda. Sì, sì, già ho capito, però ne avevo uno troppo. Come cavaliere sicuramente. Comunque se sono andata bene, una bella giornata perché c'era caldo, va bene. Abbiamo trovato, siamo messi su questo barba che c'è via Camogoni, chiuso adesso, siamo messi sotto la pettoia lì per mangiare, c'erano questi giorni di tavolino come si. Siamo messi a mangiare lì e poi ce ne siamo stati tutte quelle granate che ci sono dal bar lì a prenderci il sole. Ecco, parlate, vabbè. Siete state fortunate perché adesso gli ha lasciato fuori. Ah, vero, adesso non è stagione ancora di chiuso. E ha lasciato dei colorini, ha lasciato colorini e fa volere un plato. Ah, siamo arrangiati, noi siamo bussati, siamo mangiati degli zecchini, no? Poi siamo presi il sole. Ma veramente siamo stati bene perché abbiamo passato la giornata all'aria aperta, anche quello, e qui anche i bambini. Dicono che cosa, oltre che sono abusivi, ci dicono che cosa 1900 in giornata. Boh, quello lì non lo so, io so che lì prima, proprio il contestativo lì dove è nato l'albergo, prima c'era un campo grande, si mettevano gli zingari. E poi, niente, poi gli zingari erano stati mandati via e avevano costruito quell'albergo, però la verità non ho mai guardato se c'era concessione edilizia, se c'era un'autorizzazione del comune, quello lì non lo so perché cioè a me non me ne fregava niente. Io passavo e andavo in quelle rocette che ci sono leggermente più avanti, andando verso il Capocaccio e mi mettevo a pescare lì. E niente. Luca, se non sono andati a controllare quelli che sono sbatterato. Ma non si può, aspetta che un secondo che controllano, se non ci risentiamo qua. Cappa, fate. Poi io che la bottiglia fumava. Gappa. che tempi purtroppo stanno cambiando, ma è un gran casino. Tutto è truccato, tutto un macello. Allora, dimmi il nome di chi si formerà. Questi palazzi, quanto spendo? Mentre che io spendo 50 milioni. Sto facendo le putte, sì. Da questi appartamenti ne ricavo 500 milioni. Adesso lui ne ricava sempre 500 milioni e anziché spendere 20 milioni ne vuole spendere 10. Giustamente lo dà l'artigiano, l'artigiano lo piglia a bruciatura, ha chiesto da me ma cosa balla? E così che cosa fai? Niente, non puoi fare niente, così che tanto vale che uno arrivato a quel punto lì e fate sparire. E questo qui lo Stato lo vuole, perché lo vuole? Perché conviene anche a loro, capito? Perché altrimenti ci sarebbe stato lì sono la minaccia dei cantieri. Più ho fatto io. Sono col portatile adesso, ho provato un altro canale, magari sul canale 25 si sente di meno, sul 22, però dall'1 al 10 al 13 si sente sempre. Sai cosa, come funziona? Quando parlo io, per esempio, parla Gianni o parla Mario, ci portiamo dietro, mi senti di più, anche se discorsi sul 25, non va a testa, non cambia niente. Non so, chiamano così, infatti magari in certi punti li prende un po' di meno, in certi altri un po' di più, però li senti sempre. E beh, già qui sono stato all'Anghero. Ehi, Anghero, ma sono stato male. Ma era bello di lì, il vento ce n'era. No ragazzi, per la giornata stupenda, vabbè, non me la sono convinto per niente. Ma siamo andati in tardi, siamo arrivati lì che da l'ombra qua, abbiamo mangiato, ci abbiamo preso un bel po' di sole, e poi ci siamo andati alla Lazzaretto, e dopodiché ci siamo andati a fare una sedetta per la giornata all'Anghero, tipo in inglese. La gente c'era un po' di gente, no? Vabbè, è come se fosse stata la stessa cosa. E poi i sassaresi tutti hanno la stessa idea, che dire, o Trattamona o Alghero, tutti andavano a Alghero a farsi la passeggiata. Sì, a Trattamona, ragazzi, non è nulla. Poi, è un po' sugio. Sì, vabbè, diciamo, vicino parlo, posto vicino parlo a Trattamona, però se volevo vedere qualche negozio, vedere qualcosa di diverso, vanno ad Alghero, il punto più vicino dopo Trattamona. Porca, c'è anche proprio il sì, è cosa da media posso di domenica, almeno qualche negozio aperto lo trovi di domenica, ti mangi un panino, vai, ti fa una passeggiata al porto, te ne vai al centro storico, c'è sempre qualcosa aperto, almeno è una bella cittadina. Sì, esatto, sì. Io mi guardo anche un po' monofono, con un tipo di mare. Come, da un po' ho trovato la trovare la bici, lo sai. Allora, vabbè, questi coso, questi tipi, questi personaggi già ti capitano magari chissà tanti mosse all'anno, noi neanche li vediamo. Com'è lì? Tranquilla. Bella famosa, è una bella donna. Sì, sì. Ma facciamo tempo che poi le vedi davvero, sono tutti tanti camuffati in televisione, le vedi tutte truccate, poi le vedi davvero e sono dei mostri. Mi ricordo una, l'avevano fatta vedere alla televisione a un programma, l'hanno presa la macchina per alzata, già che non sembrava neanche lì, un'altra persona. Io so, tipo se non l'avventura ci avevano le zappe di gallina su giù, e in televisione non si vedono. Era nel fogliato che la vigilia, anzi non era, all'epoca era discontinuo, Vigilia del Fuoco dice che avevano fatto un concerto di ricchi e poveri, e c'era tra cose con l'angela dei ricchi e poveri. Tu la vedi in televisione e sembra un bel carino, dice la vita da vicino, dici. Se te la guardi sembra quasi a 60 anni la faccia, la vita senza trucco, dice una cosa da paura, perché tu dici era molto carina con i capelli corti e gli occhi celesti, sembra una bellissima, cioè molto fotogenica, la guardi davvero, dice sembra una vecchia senza trucco. Quella l'ho vista proprio un concerto, quindi adesso sta sempre come in televisione, truccata, sta. Lui l'ha vista dietro di quinta perché deve prepararsi e tutto quanto, dice se no, c'è da dire che è grandetta, ma lui ci avrà, saremmo intorno alla sessantina, all'epoca magari ne avrà avuto 50, 48 quando l'ha vista, però adesso io penso ci abbia 58 anni abbondanti quella lì. E non mi è sembrata una bella donna, non so dove l'ho visti, a Campanella, era una lavapetta, suonava e cantava una lavapetta. Andiamo alla lavapetta, questo il concerto, come si chiama quella, Marina Re, la conosci? Sì, ha fatto, l'anno scorso ha fatto il concerto a Usini, io ho degli amici di Usini, doveva fare il concerto, hanno disdetto tutto, si è affiliato questa gottura, dice non era in condizione di cantare, cotto a pezzo era. E quindi di Nani? No scusa, non Marina Re, sto dicendo Fossilie, Irene Grande, scusa ho sbagliato il nome, Irene Grande dice che aveva una cottura, ma la cottura l'ho preso non so quanti soldi. La mia concerto era gratis, però i soldi a lei, tutto l'albergo, tutta quella roba lì, le hanno dati. Mi sembra costava tutto quanto 7-8 mila euro, non so quanto ce ne hanno rimesso di soldi, perché poi lei non ha cantato e l'ha cotta a persa. Che figura, guarda, cosa che è niente. Cosa si vuole fare? E comunque li hanno camuffati molto, io mi sono sciabattati lì. Capito già? Niente. Che è successo? Non ho sentito più la giacca. Sono in radio. c'è una portante forte, l'ha annullato, prova a parlare tu Luca. Mi senti a me? Formatore 3. Aspetta, Guagliani non lo sento, riprova Guagliani. Ma fai un di radio, so che è importante. Come funziona di radio? Tu sei parlato ultimamente, poco fa. Vabbè, comunque, stavo dicendo, c'erano quelle due persone che fanno i film con un tizio bravo. Ma nuove sono, vabbè, non sono aggiornato. Sì, vabbè, io lo so fare i giornali, non è che la parla di chi si vive, non me la fa finita. È una bionda bella da provocare. Abbiamo fatto il filmato, così infatti mia moglie è stata stranera perché ci piaceva sempre l'obiettivo come fa su quello. Invece la macchina fotografica ha preso al collo. E la ci l'è presa sopra le spalle. E tu le offio. Beh, certo che io fotografo le belle donne, non quelle brutte. Ho fotografato Simona la Ventura, ho fatto la battutina, che le rosa, no, non è simpatico. Secondo me è simpatico, più pezzo di foto e tutti. E gli poi uno che è matto, dice che c'è la preoccupa se si fotografa dei macci. Niente da dire quando uno si guarda le belle ragazze, niente da dire, anzi. Io comunque sono un buon gustaio. E anche io sono uno molto buon gustaio. Qual è il colore? Qual è la colonna ideale? Di cosa parli? Di colore del cappello o di che cosa? Di tutto, colore dei capelli, di occhi, di alla testa, di magretta, di tutto. Il tipo, un tipo malvagio con gli occhi chiari però. No, la mia tipa ideale è bionda, con gli occhi chiari, viso d'angelo, alta e bella. Non tanto bella, va bene anche un po' piena, ma non grassa. Ma in mezzo è piena, non magra, assolutamente non magra, piena davanti, soprattutto gli occhi chiari, i capelli neri e sportiva. Ma voi che lavoro? Non c'è nessuno qua, se non mi cubi morti. E meno male che non c'era. Io dai che tu mi attennavo. Un po' geloso, ma guai, infatti non mi dà più facile fare dei conto, delle osservazioni, cerco di evitarle se ci rimane male, so che ci rimane male, poi mamma mia. Me la ragazza, così mi trovo più difficile, ma c'è che ho messo tutti che vanno. Una donna che vuole tanto lo uccide e ti mette a guardare le altre, mi dico. È vero, no, ma io molte volte, io c'ho un amico invece esattamente il contrario, c'hanno la foto con la moglie, questo ti fa tutti i commenti, ma lì sa cosa di vostro, davanti alla moglie, però viene, o almeno sembra non gliene frega niente. Dipende anche più rapporti anche. Ci sono anche quei rapporti che la mettono svaniti. E no, questi vanno molto molto d'accordo, però da sempre, sono sempre stati tutti io, se c'è una cosa del genere, guai, sono colpo. Cazzo da muovi. Casa lavoro, attimo, se mi mette la moglie contro il lavoro orroroso, o sai se vanno a pescare anche il lungo. Ma in realtà, scusa, una cosa mi sono anticipato di ieri. Quelli che parlano molto sono felici di vedere di Marco. Sì, ma io gli apprezzamenti li faccio, ma adesso di me, capito? Penso, cantando una intervista, però non lo dico, capito? Invece ho amici che stanno sempre così, si abbanano gli umani in capo. No, ma questo che dico, questo amico mio anche davanti alla moglie, non ha nessun problema, questo non si mette nessun problema. Ti volevo dire, ma ieri quella che ha parlato, cioè davanti che era tua moglie, al baracchino? C'è stata a me, sì. Una bella voce c'ha, caspita. Sì, ma poi anche, le donne rendono molto, non è anche a tua moglie che la sua voce aveva più della tua. Vabbè, spesso perché non siamo abituati, no, c'è una voce, ho detto, la figlia non può essere perché è troppo, perché ho pensato uno scherzo, che tu stavi facendo qualche scherzo, magari hai fatto parlare a tua figlia, però ho detto, non è quella la voce, mi sembra una voce di una persona più grande, più adulta, diciamo, infatti poi Luca mi ha detto, deve essere la moglie di Gianni. Sì, è da lì, perché mi ha chiamato Mario, mi stavano cercando perché c'è la cera, io me l'ho dimenticato, mi sono venuto la bambina. Il sabato già andato a pigliare un figlio da a cura e non c'era. Ti dimentichi che c'hai amici a casa, e cosa ti succede? E sono pensieri da lavoro, sono pensieri da lavoro. Sto facendo un lavoro di qua, a parte di scherzi. Sto facendo un lavoro di due o tre persone. Mario. Sempre che ti ascolto, io ascolto sempre a tutti. E se ci rispondiamo siamo ascoltati. Non capisco che mi ascolti, però Mario mi senti basso basso, non mi senti ascolto, però prima era molto meglio. Non dico differenza di radio. Sì, io non mi ascolto. Capisco che mi sento. Sicuramente ci ho sentito uno parlando sopra. Chi sei Fabio? Fabio mi hai sentito, li senti a Mario e a Corso e a Gianni? Ma sei comportati anche tu? Ma anche lì non suo? Sentite voi, Mario e Gianni, lo sentite a Fabio? Come vedino, non vedino. E allora, è più poco. Vicino a me dice che al quadrato con l'antenino portatile piccolo, no, io l'ascolto bene. E beh, gli fa, non è risolto con la storia. A me adesso mi ascolti bene comunque, adesso ho aumentato, adesso sono a 4 watt, diciamo, di quando sono col portatile, meno di prima. Anche col portatile. Vabbè, ti saluto, dai, loro non ti ascoltano. Alle prossime cerca di sistemarti la situazione, Fabio. Salutato a tutti, Gianni, Luca e Mario. Fabio. Fabio, ciao, se mi ascolta, è brutto, ciao. Ciao Fabio, alle prossime. Vabbè, lui è vicino a me, io sono uno dei pochi che si sta ascoltando, cioè mi accadio probabilmente, anche se mi fa su altre frequenze. Comunque, stavo uscendo con un portatile e con l'antenino suo, come uscivo io, ti ricordi Luca, tempo fa? E io. Cappa, che andava? Ma non hai guardato? Guarda, tanto sanno che non riesco a arrivare, tu mi ascoltavi dentro casa con l'antenino, te lo ricordi tu? Eia, è stato un vecchio, avanti. Buonasera, avanti. Ah, sono atto, ciao. Mi hai sentito, avanti Mario. Ciao, Marcella, buonasera, buonasera, se mi hai sentito. Gappa. Ciao, se non mi hai sentito. Ma non è giornalisti brutti, ricchi e prepotenti. E invece così va meglio, va, è più bella la radio così. Attaccato. No, no, non ti dici, ma non è prepotente, non male, non vuole giocare, già te li conosci. No, no, la modulazione io sto dicendo, con quell'eco sembrava una modulazione un pochettino così. Adesso c'è lo stesso, appena, ma è molto meno. E così va meglio, là, è anche più comprensibile della radio. Ah, ma però è Luca il migliore, perché ci sta. Tu, cara, vieni qua in funzione. Cosa? Ecco, cara, però non fa, lei fa due cavalli, fa tre aerei, per come è stato fatto. Sì. Allora, adesso, Ruglia, ho ritornato la finale di... Oh, cavolo, rimane il sinistro, non lo so guardare, però qua la finale, voglio vedere chi vince, va? Ma chi mi chiama tu, non lo pensiamo nel programma, perché c'è gente per quello, tutti, abbiamo il signor Fila, ma va insieme, ha detto, sono fai un attimino su, per fare una commissione, ma sto conoscendo, non vediamo per favore come fare un cazzo. Poi io, guarda Roberto, sei fuggito oggi? Sì, stamattina l'ho portato al centro, sono riuscito a uscire con le bambine, ero da un po' di mesi che non uscivamo tutti insieme, c'era una bella giornata, è coinciso tutto quanto, stasera poi purtroppo sono dovuto andare per purtroppo, però è stata finita con la squadra, abbiamo preso un po' di sole dopo tanto tempo di freddo e di pioggia, che era per i pucci di sole oggi. Ma è quello che fa bello, così fa piacere sempre fare qualche trasferta, che è venuto anche le giornate, un sole, qualche circolo di panchino, stai facendo una guardialina, insomma, anche a maniera sono più di sole. E tutto buono si fa fare giornate brutte, che è per sempre. E beh, io qui la prendo, Robert. Sì, non ho visto completamente perché diciamo noi stavo guardando le immagini senza l'audio, ma la disfrutti mica, se l'hai tutta una risposta. Visto quello che ha fatto Gattuso omicidiale, l'hai visto? Però ha fatto, tu in testa che è sceso, sceso, è così, lui ha tutto fatto fuori in testa. Se la fatti con le sorpresa, non beh, hanno giocato nel precedente. Sicuramente sì, contrario della Juve, che la Juve stava pensando soltanto alla partita di mercoledì, credo, o martedì, adesso non mi ricordo, quando è di Champions League. Infatti ci avevano diverse motivazioni le due squadre e speriamo che non l'abbia date tutte ieri il Milan e che se l'abbia conservata per la partita del di Coppa. Però non pensano, non credo che motivazioni. Ma sei notato che motivazioni erano? Con Tacuzza, Cilicenio, con Sanfili che ha attaccato il Juventus. Perché Gattuso, non hai visto quando ci ha sbattuto la testa con quello là? Io pensavo l'avesse ammazzato, proprio tranquillo lui, come niente fosse successo. Ci avevano un pubblico di Gattuso. Poi io... Sì, per sorte devi essere molto naturale, o Roberto, che ci serve, un uomo come Gattuso ci serve. Grazie, Pinato. Spero che arrivi in forma. Ma è un iniziale. Ecco, ma... Ma come già mi piace Milano, se la modifica, ma quando c'è la modifica sta facendo? È stata, sì, non c'è la condizione un po' criticata. È stato tutto, non c'è l'intervento, e tanto meno si è sentito il rumore sottofondo, si è aumento, sentite il rumore sottofondo. Ma che forse si attacca con l'altro alimentatore, va, si sente, no? Perché nel mio non c'è verso, è vero. vuol dire che se ti portano quello là, mi dai quello là e ti ritorno al tutto. Lucy, via. Due telefoni insieme, tanto di questo non si posso usare. Va bene quello che c'ho e infatti devo usare quello con la schiena stretta al posto. E poi già lo sai con la schiena da lavoro a farmi andare, quindi sai che posso stare anche con te. Non è che a tutti i lavori della televisione va sempre di fumacco. tutti i programmi di Rivedelti sempre a questo antipatrigone. Deve essere che lo fa gratis, lavora gratis, perché a tutti loro va sempre di suo matto. In tutti i programmi c'è sempre lui. Come è capito la momenta che sono stato da vicino, ho detto che a tutte le ore a Canale 5 quando c'è qualche programma di intrattenimento c'è sempre lui. In ogni volta ve li ha detto. Ormai è superato, per dire qualche persona di programma, cazzo a tutti loro va sempre di Tomasco. Ma cosa di vero? Lui ti sa cantare bene, sa recitare, sa fare la sua di roba, non è come se mi affiglio con un meglio ma cosa. No, con questo programma c'è un bel figlio, Cappa, no roba, Cappa, Cava, Cava. Era un po' stressato quel programma, però... mamma, guarda, se ne perde uno, mamma mia, guai, guai. Ma guarda, che sei mai figli? Mamma mia, già. Ma non era lì, guarda da tutti, ma non era fra... i compiti con quando si... amici, capiti, capiti. Non mi dico, quindi dice che lei si concentra se lo stesso, che non ha bisogno di concentrazione, per fare le espressioni, eccetera, eccetera. Vabbè, è superiore, la media. Non parte la media, E ho messo questo mano perché non c'è un tubo. Poi non so se è lontano, ma non c'è anche il fulmello, tutti impari, poi ti danno per esempio iene, oppure non capisco. Hanno questo problema, non ho qualche cosa, ma qualcuno non lo guarda, si guarda altro, no? Ma non c'è nulla, non c'è nulla. Poi c'è un film taglia uno per carità. Ma sono finito, i zombie, bro. Perché fanno così, se lo mettono in audience nella cosa per vedere chi vince, capito? Una specie di competizione, uno va a dire un film che mi piace, un altro da un programma che mi piace, l'altro da un film che mi piace. E sono di qua questo aspetto di vedo chi che è migliore, non ho trovato quel programma a questo punto. Ecco già. Ho provato il programma che ho detto. Oggi non l'ho provato per vedere se c'è la novità, però lo conosco perché ce l'ho io già quel programma, ma l'ho caricato, non so se ci siano stati degli aggiornamenti, l'ho visto messo ottobre, novembre, ma forse anche prima, settembre, prima di iniziare il campionato l'avevo visto. Guarda, adesso ci sono anche televisivi che ti hanno detto film vietati, capito? Molto pornografici, senza problemi. Non ne tocca nessuno, solo io lo uso. Vado sopra qualcuno mi pare, chi c'era? Nessuno. Sentito gente a parlare sotto. Cosa se qui sia riciclato che c'hai? A me è una maniera micidiale, non so la lunga, ma a me mi sta aspettando a volte ti scopre completamente. Perché nel respegnino, in franco, a me sta non era fastidio, con questo, ma poi infatti gli rimane il piatto, poi lì, tre macchie, con le quattro patatacca, un po' un secco, ma sì, nel respegnino non lo sento più. Ma sono a luglio, ora non cambiano le respegnino, sono molto problema, ma che macchina di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gianni, se vuoi aumento io, sono con un lato, posso salire a 5, a 4, da 3 e mezzo quello lì fa, di portatile. No, ma è a momenti, capito? A momenti, ecco, con tutti bellissimi, a momenti, come è, fa, mi sa con quanto tu sei scende, dite, non lo so, fatto te che disturbano, c'è poco da fare. Non so, infatti non riesco a capire, finché lì ci sto facendo collegamenti a lunga distanza, niente da dire, però, cavolo, stiamo dentro città, che bisogno c'è? Sono già qua in città, io ero dentro 40, ma sono a Fucanai. Mario, c'è ancora? Sì, certo che ci sono, ma possiamo, non ci devo essere. Mi sei coricato, si sente dalla voce. Sì, io. Sembrava aver sdraiato, la voce più rilassata, sapevi? No, negativo, ho abbassato la voce perché se no mi sentono quelli dei piani di sopra. Ah, così è. Ho pagato, comunque come mi senti bene, sì. La voce è ottima, 100% inconfondibile. Una delle poche voci che tu, Pino, Luca e Coso e Gianni siete con le voci, Salvatore che è inconfondibile. Magari Salvatore e Pino un po' si confondono, ma sono le voci uniche, diciamo. Guarda che quando c'è anche Coso che si confonde con Claudio Natalino. Qualche volta sì, vabbè, ma la radio lo sento perché ce l'ho vicino, è talmente forte il segnale, me ne accorgo, però io confondo molte volte Gian Maria con Coso, con Giulio, sono abbastanza confondibili, o con Gavino, Passero, sono molto simili le voci. Ma io Gavino Passero lo confondo un poco con Coso, con Mistero, cioè quasi lo stesso tipo di modulazione, molto confondibile. Tua, Mario, ti garantisco che non la confondo con nessuno, come quella di Tino è bellissima, forse la migliore di tutti come tonalità di voce, cioè c'ha una voce, la gente dovrebbe fare un cantante lui, cantante di musica melodica, c'ha una voce perfetta. Ma io c'ho una voce da trombone, non è che c'è una bella voce io. No, non sto dicendo bella o brutta, io sto dicendo la tua è inconfondibile perché ha una tonalità unica, cioè nessuno ce l'ha, però quella come nitidezza di voce sembra uno speaker di radio, quella di Tino, ma la voce sembra dovrebbe fare il DJ nella radio, uno speaker. È cappagata, la mia invece come le cose sono di abilità. Guarda, la voce tua rimane un po', come si chiama, grossa, tipo, come ti chiama, una storia che come fare un confronto, un po' raffiata, diciamo, come voce. Però è comprensibilissima ed è unica, nel senso che non ce l'ha nessuno una uguale alla tua, cioè se uno si mette anche a imitarti non ci riesce. Cioè magari la voce di qualche altro si può imitare, ma la tua è molto difficile. E un po' raffi di nota, però è un bella forza. Ne mi hai sentito? No. La voce tua invece sembra una di quelle voci di predicatori, tipo come c'è la Manuele. Manuele è micidiale, insomma la voce di un prete che conosco io, e tu parli di predicatori un po' tranquilla, rilassata, cioè non sanno degli scatti di tonalità alti o troppo, cioè sempre la stessa tonalità, non è né alta né bassa. Ma io sono costretto a parlare così, non è che parli così normalmente. No, ma io sto parlando anche in verticale, c'è una tonalità di voce tuo, cioè non c'è un acuto, per dire io in certi momenti posso alzare la voce, tu ce l'hai sempre costante come tonalità, cioè non c'è un aumento, per dire molte volte alzo un po' troppo la voce, c'ho dei cambi di tonalità, almeno penso così. Ma se tu ce l'hai sempre standard, sempre con la lì, con la stessa tonalità, tranquilla, eccetera, eccetera, come Emanuele, ma non è Bari proprio un predicatore di quelli, dovrebbe fare il coso, che dicono la messa a Bari? Sì, sì, è vero, molto chiara comunque la voce di Emanuele. Che sta bellissima, una bellissima voce. A me, noi in radio quando facevamo i sacchetti c'erano quelli che avevano la voce più bella, li facevamo fare i sacchetti pubblicitari, stai ascoltando, eccetera, eccetera. E la gente aveva una voce molto chiara e nicchia, poi c'erano quelli che erano veloci a parlare che quelli li utilizzavano per altre cose. Invece c'è una voce che potrebbe fare 40 personaggi diversi, può fare imitatore, riesce a fare dei cambi di tonalità micidiali. Un massimo. Ma Simone, ma che sei un po' blocca, dove si può fare lì, come cambiare voci, riesce ad adattarsi a seconda della situazione, si fa un personaggio diverso. C'è anche un tipo che praticamente è suonato una campana. Sta sfidando questa tipa che è bravissima, cantando, ballando, e questo tipo praticamente stanno mattando. non si confonde la voce di Fabio, di Fabietto con Luca Fritto, e si assomiglia a Lomba secondo me. All'inizio avevo grosse difficoltà io, a capire chi era, per molti me ti conoscevo, era Luca, Gianni e Coso, e Mario non li confondevo, però all'inizio c'erano altre persone tipo Tino e Salvatore, li confondevo molte volte. Dubbio mi viene molte volte con Gian Maria e Conso e Giulio. Molte volte infatti poi devo pensarci e sentirmi un paio di volte per capire che uno e che l'altro. Stavate dicendo Giulio si sta facendo un microfono in falegnameria, così? Sta tutto intagliato con tutti i cosi, anche la base. Il microfono che c'è, c'è da prendere, più uguale di piccolo, solo del legno, un po' quanto in legno. Ma che microfono c'ha lui? Un MB+4 o un microfono superiore? Lui usa il cover. Il cover è come di cover più stretto. E poi come fa a passarci i fili dentro? Di segnale, cioè di riflessione di segnale, non avrà un suono metallico, cioè avrà un suono molto molto poco riflesso, diciamo, perché il legno assorbe parecchio, sarà molto ma molto buono come a parità di capsula, diciamo. Guarda, l'ho già fatto, e tutti mi dicevano che era una bomba, l'hanno voluto, anche io l'ho chiesto, non ho conseguito, per andare a fare anche la fatto un barricchio, e mi hanno detto che non so se è a te, quindi farlo, tempo perso, e come tutte quelle cose che ho fatto vedere, quelle che abbiamo fatto non io, qualcuno l'ho fatto io tanti anni fa, quei modellini infatti in officina, te le fate vedere con le aerei e quelle cose delle viste. E c'è la gente che ce li chiede anche l'altro giorno, dai fammene uno, queste si fanno a tempo perso, poi se ti metti a farne per soldi devi cambiare attività. E verniciata, sono dei modellini poi con le macchine, le hai viste con tutte quelle macchine che ci sono? Sì, l'ho visto, sì. Poi sono tutte fatte l'elicottero, l'hai visto che bello l'elicottero? Mario, forse Mario, le hai viste? È scappagata. No, mi piace molto sia l'elicottero che quella che c'è tornata. Sì, sono fatte, l'elicottero rende di più forse. Non è una specie, quello è un tornado, diciamo, almeno si è cercato di fare il tornado. Però, diciamo, non è, la grossa difficoltà è più fare le macchine che fare gli aerei e coso. E l'aereo di coso non è facile, perché c'è un lavoro di miniatura, ci sono tutti quei missili, quelle mitragliatrici lanciarrasi, devi farli tutti fuori i coglioni. Però fare una macchina con i coltelli gaffe non è facile. Ma è cazzo gaffa. No, di facile non c'è niente, se ci vuole molta pazienza e molto coso e molta bravura anche, perché non è facile. Ma il tornado mi piace, a me l'elicottero, le altre cose diciamo che mio figlio si sta provando, adesso si sta facendo la collezione di tutte le Alfa Romeo da Pallanata a oggi, diciamo così. E, io li ho pigliati senza toglierli dalla sua cucuglia, li ho messi appena appena di colla e poi li ho attaccati anche con la cucitrice e ho fatto una striscia in diciamogli un metro e qualcosa, un metro e venti, e l'ho attaccato su una parete, poi quando fare altre metteremo anche le altre così. Sono belle le macchine, ma io sto facendo quella di tutte le macchine italiane che hanno fatto la storia dell'Italia, tutta la 500, l'850, la 127, la Croma, la 600, ce ne ho già di quel tipo lì, che le viste ne avevo una quarantina di numeri, ne sono uscite qui tutta quella serie della storia dell'automobile, però quelle sono macchine che cioè, sono macchine troppo importanti, Lamborghini, Ferrari, poi che si chiamano? Le cose, le bugate, sono macchine che noi non abbiamo conosciuto. No, già, lo so, siamo preso di disco stamattina. No, comunque sono belle. Sono belle, no, ma adesso mio figlio sta facendo le alfa, infatti sono già uscite per le tre raccolte, dalla 155, la 147, GTA. Topolino di macchina, ce l'ho quasi tutto le Fiat, almeno le più importanti. Non è che a Topolino c'era stamattina col mercatino dell'antiquariato di Piazza d'Italia, ha cazzo 20 euro le vogliare, ma la macchinetta sarà da 3 centimetri, 4 centimetri. E tu stiamo scherzando, è stata 20 euro. Ma non è che si trova la percentuale, cioè se tu hai una vetrina, con tutte le parte quelle cose lì, giustamente te le fanno pagare. Io penso che ho iniziato anche a fare i modellini della Ferrari, sai, gli si aprono le portiere, le cose, e mi ha detto sì, non è che ne abbia molte, però mi fanno pagare 40 euro l'una, non è che me le regalano, e c'era il modellino della Ferrari Formula 1 lì alla cosa, come si chiama, la Vodafone, ho chiesto quanto voleva, ma non ho detto 60 euro. No, non se ne possono più comprare, è assurdo, cazzo, comprare macchinette. Poi se prendi quelle proprio in serie limitata, guai, cazzo, ho visto da 250 euro, belle, niente da dire, ma cazzo, costano troppo. Vabbè, ma uno che fa collezione, quelle cose non le guarda, capito? Perché dice ce l'ho e lì, e fa parte di tutta la collezione. No, adesso mio figlio c'ha anche quei modellini antichi, quelli che si usavano diciamo nel 52, 53, niente, ce ne ha tre di quelle lì che sono uscite con i fascicoli e sono tutte quante lì, non è che, e quelle lì se te ne dovesse mancare qualche luna a cercarla te la fanno pagare l'ultima testa, cioè già queste piccole le stiamo pagando 10 euro l'una. Sono quelle macchinette piccoline piccoline. Ma non sai cosa c'era stamattina Mario in Piazza d'Italia, ho visto, è che è bellissimo, ha fatto bene veramente il tasto dell'alfabeto mosso, tutto in ottone con la base in mogano, con tutti i registri, tutti in ottone, guarda, spettacolare. Il prezzo era buono, però non avevo di dare la lampada 60 euro, ma tu lo vedi quanto era bello, tutto in ottone, con tutto il meccanismo in ottone, con tutte le molle di ristorno, era spettacolare, però 60 euro era troppo per me. Il coso per battere l'alfabeto Morse, tutto la base era in mogano, bellissima, e tutto il resto è ottone, lucido, lucido, una cosa anche vecchia di età era, deve essere qualche rimasuglio di qualche stazione marina, non lo so, ma bello con tutte le molle in vista, era veramente bello, 60 euro però ne voleva. Ma quelle cose lì si ripetono anche funzionare bene. Sì, l'ho provato, era perfetto, c'aveva tutti i contatti a vista, tu vedi con tutta la punta registrabile, c'era un sacco di cose, questo era per forza doveva funzionare perché tutto il meccanismo era a vista, si vedeva benissimo, ti posso dire bellissimo, era in ottone lucidato, a specchio, e la base è in legno, in mogano, bellissimo. Questi sono gli domenica. Allora, ci sono l'ultima domenica del mese, sono in Piazza d'Italia, e la settimana dopo, la prima domenica del mese invece, il mese successivo sono al portatore e allo studio lungo si mettono. E la seconda domenica del mese invece si mettono in piazza Garibaldi a Porto Torres. E il sabato invece, l'ultimo sabato del mese, si mettono ad Alghero. Ecco, ragazza, no, perché potrebbe essere anche una gente interessante. Ma io sono convinto, ce l'ho trovato, a me mi piaceva tanto, non lo stavo per comprare, però ho detto basta, ne ho tante di cose, però è una cosa veramente bella da conservare, perché fa anche, è un bel soprammobile per dire, però oltre che soprammobile è una bella cosa, proprio un bel oggetto. A me piaceva tanto di comprare la finanza, lasciamo perdere, però ne butto troppi di soldi in queste vie. Beh già, non mi dico di sì. E già nel mezzo, ma che ne sono? Qualcuno ha solo l'orario? Le 11 e qualche cosa, ho guardato poco fa, erano le 11 meno 10, adesso saranno le 11 e 10. Ecco, allora vabbè, se no domani mattina noi ci andiamo a lavorare. Allora, manco con le pinzette ce ne alzano. D'accordo, ci sentiamo, vabbè, buonanotte, buon tutto. E buona giornata per domani, là, che domani è ancora più pesante che lunedì. Ciao, salutati a te Mario, alle prossime, buonanotte, buon recupero e buon lavoro per domani, ciao ciao. E ci avete Gianni, c'è ancora, sono chiuso anche io. Sì, Luca, chi c'è? C'è ancora qualcuno? Sono, però, guardando questa mattina la roba. Ci avete Gianni, risponde, Gianni, sì sì. Ciao Mario, buonanotte, alle prossime. Mi è rimasto, grazie Luca, c'è qualche domanda. O si è spostato o si è rovesciato? È una scarica elettrica invece si scelta. Gianni, scelta di si. Beh Luca, ti saluto anche io, alle prossime, buonanotte, buon proseguimento se stai guardando la televisione. Ci sentiamo naturalmente domani, ciao ciao. Ciao Paga, ciao Roma, ciao, buonanotte anche a te, buona giornata per domani, buon lavoro e buon successo, ciao. Ciao amico Trumbetti, ciao.